yo sé perder, quiero volver. Ed eccola qui, questa che avete sentito era la voce di Chavela Vargas, a cui appunto stasera faremo un omaggio per il suo grande lavoro svolto in una lunghissima vita. Abbiamo sentito, ha detto prima Manuela, ha ricordato, Chavela Vargas è morta a 93 anni a Cuernavaca in Messico, e la consideravano l'ultima ranchera, l'ultima interprete di quella canzone popolare messicana e comunque in genere sudamericana, che appunto lei così bene aveva fatto conoscere in giro per il mondo. Nessuno dopo Gesù Cristo ha mai aperto le braccia come lei. Questo è stato il commento di Pedro Almodovar, che la conosceva bene, la considerava una sua grande amica, quando appunto ha saputo della sua scomparsa. Ed effettivamente chiunque l'abbia sentita cantare le sue canzoni e soprattutto l'abbia vista mentre si muoveva nello spazio durante i suoi concerti con le braccia tese e questa presenza straordinaria, così lei sembrava una statua intagliata nel legno, chiunque l'abbia vista insomma cantare e muoversi non può che essere d'accordo con il regista. Chavela se n'è andata, e se n'è andata via con tutta la sua quell'ambaradam di poncio scolorati, di brillanti, di rossi con i quali si vestiva, che erano anche il simbolo della sua terra adottiva, il Messico, che raggiunse a 14 anni fuggendo dal Costa Rica, dove era nata il 17 aprile del 1919, dove aveva trascorso una infanzia piuttosto infelice presso la casa degli zii, dopo che era stata abbandonata dalla madre. E questo rifiuto della madre, Chavela se lo portò dentro per tutta la vita, era come una ferita aperta che non smise mai di sanguinare. Forse proprio per questo la cifra dell'esistenza di questa grande interprete fu l'inclusione, l'amore, non sempre facile, non sempre ricambiato. Lei diceva sempre di avere un dolore sordo e profondo che la trascinava verso queste interpretazioni artistiche, direi straordinarie, molto molto viscerali, come avete sentito dalla canzone che abbiamo ascoltato, ma aveva anche un turbinio di sregolatezze al limite della follia. Lei è stata schiava dell'alcol per più di 50 anni, passava delle notti folli sempre con la tequila in mano. Lei stessa, per gioco, una sera calcolò di aver bevuto all'incirca 1.800.000 bottiglie di tequila nella sua vita, accompagnate da milioni di sigari cubani. Lei diceva, tra l'altro, che dopo aver bevuto così tanto aveva comunque un fegato straordinariamente forte, avrebbe potuto addirittura donarlo. E rispetto a questa cosa, però, diceva anche che la vita le aveva offerto le cose più belle che un essere umano poteva avere, ma lei aveva preferito sprofondare nell'alcol. Sentiamo Arrancame la vida. Estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor, arráncala y toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. La canción canción que tenía, te la voy a cantar. La llevaba en el alma y te la voy a dar. La canción que tenía te la voy a entregar. La llevaba en el alma, la llevaba escondida y te la voy a dar. Allora, come avete sentito già dalla voce di Rosina, Chavela Vargas è stata una donna straordinaria e ha straordinariamente attraversato la terra. Nel 1933 decise di abbandonare la casa dei parenti che la ospitavano e dove, come tutti, doveva lavorare, occupandosi dei campi e della raccolta delle arance. A 7 anni ne raccoglieva 1000 al giorno, disse durante un'intervista. E se ne andò dal villaggio di San Joaquín de Flores in Costa Rica, dove era nata, perché voleva essere libera. Per la sua attrazione per le donne fu picchiata e minacciata. Quando ero piccola, e queste sono le parole di Chavela, mi dicevano che sarei stata scomunicata per il fatto di essere lesbica. Mio padre mi urlò contro che si vergognava di essere mio padre e che io fossi sua figlia, voleva rinchiudermi in un riformatorio. E immaginate gli anni, erano appunto gli anni 30, gli anni 40, e in quel periodo, certo, in America Latina, così fortemente cattolica, non era facile essere lesbica ed essere dichiaratamente lesbica. Racconta sempre Chavela nel suo libro, che era un libro biografia, E se mi chiedete del mio passato, pubblicato nel 2002, con l'amica di sempre, Maria Cortina, Chavela scriveva: «Non ho mai dato peso alle persone ipocrite, ho rotto gli schemi, non giudico nessuno, ma non ho permesso a nessuno di interferire nella mia vita. Io non considero un peccato amare. Non puoi farti frenare da quello che diranno fuori, a casa tua, da quello che dirà tua madre. No, signore, io vado con chi voglio, con chi amo». E con questo mi sembra che sia abbia detto chiaramente, no, viva la libertà, no? E la libertà di essere, di esistere e di essere. E quindi in questo contesto, dopo aver abbandonato la casa dei parenti e quindi il lavoro forzato, che arrivò in Messico. In Messico lavorò per qualche tempo come cameriera in case private e come commessa in negozi di abbigliamento, ma alla fine degli anni 40 cominciò a cantare per strada, come Edith Piaf, che era definita allora l'usignolo di Francia. Ma Chavela non era un usignolo. La sua voce potente, come avete sentito, sporca, graffiata, si trascinava da una nota all'altra, stridula e teatrale. Malinconica o euforica, sottile o sonora, era viscerale, saliva dal profondo e giunta alle labbra era come uno schiaffo, oppure una carezza, una litania, un lamento ossessionante punteggiato da ondate di tenerezza e di amara ironia. E lei stessa dice: «Sono nata con questa voce, il mio non è un canto, è qualcosa che attraversa il dolore e il piacere, che non so di sapere. È per questo, credo, che invecchiando migliora». E quindi dice una cosa veramente straordinaria. È invecchiata molto, effettivamente. E lei è invecchiata molto, ma ha continuato a cantare. 93 anni. Ok. A quei tempi, per la strada, la chiamavano Las Vargas, le Varga, perché cantava come fossero in tre. Chavela era diventato un appuntamento fisso nell'effervescente vita artistica post-rivoluzionaria del Messico. La gente la cercava nelle strade, la raggiungeva nelle cantine dove lei si esibiva, col bicchiere di tequila sempre in mano, come vi ha detto prima Rosina, spesso borraccia, cioè ubriaca, con l'eterno sigaro cubano in bocca, vestita da uomo, in camicia e pantaloni e con la pistola carica infilata nella cintura. E quindi lì, tra fumo, risse e fiumi di alcol, la sentivano cantare le sue rancheras, i boleri, le ballate rivoluzionarie e i tanghi, le struggenti canzoni d'amore per le donne della tradizione popolare. Quindi lei ha sempre cantato alle donne senza fare mistero del suo essere. In quegli anni fu legata da indissolubile amicizia al cantante e compositore José Alfredo Jiménez, autore di molte delle canzoni più conosciute della musica ranchera. Il titolo della biografia di Chavela è tratto proprio da una sua canzone ed è Se volete sapere il mio passato, allora vi dirò una bugia. Amava molto fare fiesta insieme e i loro tour alcolici per locali e cantine erano famosi per durare giorni e notti intere. Insieme cantavano serenate per le diverse donne di cui erano invaghiti. Ed è proprio con lui che cantò una serenata d'amore per Frida Kahlo, sotto alle finestre della casa di lei, incurante degli insulti della gente che passava. Il Messico era un paese omofobico, ma non è che penso che ora sia migliorato, e poi come l'Italia, vabbè, comunque forse all'epoca niente di nuovo. Forse ecco all'epoca un po' di più, oppure in maniera più smaccata, ma insomma siamo là. Allora era un paese omofobo più di quanto non lo sia ora, e Chavela soffrì molto di quell'atmosfera pesante che permeava il paese, che giudicava la diversità come un'aberrazione. Molti anni dopo, nel 2009, in un'intervista al quotidiano spagnolo El País, disse: «Ho aperto le braccia e ho detto al mondo: vieni, parliamo. E il mondo ed io abbiamo parlato ogni sera. E qualche volta lui mi ha rifiutato. Per andare avanti ho dovuto versare lacrime e sangue». Ancora una canzone, un pezzo musicale, Toda una vida. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vi. Ed ecco qui, Frida Kahlo, per la quale Ciavela cantava le serenate insieme al suo compagno Jiménez. Frida la conobbe, si conobbero negli anni 50. Frida era già un'artista molto famosa ed era, diciamo, piuttosto infelicemente sposata con Diego Rivera, un artista famoso per i suoi murales in quegli anni. Quando vide Ciavela per la prima volta, Frida tornò a casa e scrisse una lettera al poeta Carlos Pellicer, e in questa lettera descriveva il suo incontro con la cantante. Me ne leggo un piccolo estratto. Oggi ho incontrato Ciavela Vargas. E a hoy conocí Ciavela Vargas, dice nella lettera originale. E prosegue. Straordinaria, lesbica, mi ha colpito eroticamente. Non so se anche lei sentiva la stessa cosa, ma penso che sia una donna abbastanza liberata, e se me lo chiedi, io non esiterei un secondo a spogliarmi davanti a lei. Lei, te lo ripeto, è erotica, è un dono che il cielo mi manda. Ed effettivamente questo dono lo colsero entrambe, sia Ciavela che Frida. Addirittura vissero per qualche tempo insieme nella casa di Frida, e terzo incomodo ovviamente Diego Rivera, del quale non si sa bene per quale motivo Frida era follemente innamorata, nonostante lui non fosse proprio quello che si dice uno stinco di santo, la fece molto molto molto soffrire. E la storia di Frida e di Ciavela in qualche modo è stata anche ripresa nel film intitolato A Frida, per la regia di Julia Taymor, in cui Ciavela stessa interpreta la Giorona. La Giorona è una specie di prefica, una donna che piange. Nella colonna sonora di questo film è presente anche una canzone molto molto famosa che si chiama Paloma Negra. Le sentiremo entrambe, sia la Giorona che Paloma Negra. Salma Hayek, che è stata sia la protagonista che la produttrice del film, ha voluto a tutti i costi che Ciavela lavorasse in quella produzione, perché lei riteneva che Ciavela non fosse una cantante messicana, ma che fosse addirittura il Messico. Questo per dire la grande stima e la riconoscenza anche che aveva nei confronti di Ciavela. Ciavela, che non ha mai fatto mistero del suo essere lesbica, al contempo però detestava che le chiedessero soltanto appunto del suo lesbismo, perché la sua vita era anche altro, e detestava anche che le chiedessero solo ed esclusivamente dell'amore con Frida Kahlo. Però lei disse, dopo aver girato questo film sulla vita dell'artista, le disse che appunto le erano riaffiorati dei ricordi remoti. Disse: quando dissi a Friducia me ne vado, lei si trasferiva a Cuba, se ne andava dalla casa di Frida, Frida le rispose: lo so che te ne vai, non ti piangerò, io ti ho partorita e non posso tenerti. E ancora, sempre parlando di Frida, lei era solita dire che non poteva dimenticare la notte in cui Frida le confessò che Diego, il marito fedifrago, aveva avuto un figlio, Tonchito, da sua sorella Cristina. E mentre raccontava di Frida e di queste esperienze che attraversavano questa donna che lei ha molto amato, Ciavela diceva: bisogna essere molto forti, più che forti, molto donna, muy mujer, diceva. E poi alla fine diceva anche: Friducia era un fiore, le sue sopracciglia erano una rondine in volo, quando si svegliava e apriva gli occhi le ali della rondine prendevano a volare, era un essere di un'altra dimensione, una luce. Infine è tornata nel suo posto, l'ho ammirata profondamente, ma il mio amore era molto più grande della mia ammirazione. Sentiamo il pezzo che Ciavela Vargas era solita cantare per Frida e che è presente anche nel film, La Llorona. Me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me

E anche una grave malattia contribuì allo stop della sua carriera. Infatti Ciavela si ammalò di cancro, e un cancro pare piuttosto grave, sembrava che ne rimanesse poco da vivere. Quindi lei decise che la medicina tradizionale non faceva appunto al caso suo, e un bel giorno si alzò e decise di andare presso gli indios guaritori Huicol. E incredibilmente, dopo appunto un periodo passato presso questi indios, la Ciavela Vargas ritornò sana e tra lo stupore dei medici europei. E in quella occasione, stando appunto tra gli indios, Ciavela venne fatta sacerdotessa dell'arte Huicol, e quindi divenne una curandera, una guaritrice, e addirittura come guaritrice, come curandera, le viene accreditata anche la guarigione di un bambino che soffriva di una grave peritonite. Era un bambino che abitava in una foresta. Insomma, i suoi genitori pregarono Ciavela di aiutarli, di guarire questo bambino. Lei disse appunto di non avere il potere di farlo, però poi, così raccontava, dentro di sé sentì una voce che le diceva: vai nella foresta, prendi una foglia del banano, tagliala in un certo modo, usala in un certo modo. Lei fece questo e sembra che il bambino guarì. E lei diceva di se stessa appunto di essere una sciamana, diceva anche di avere un rapporto particolare con il soprannaturale. Ad esempio raccontava sempre che l'anima di Federico García Lorca, il grande poeta, l'aveva visitata sotto forma di un uccello giallo. Ora, io non so se tutta quella tequila in qualche modo abbia contribuito a queste visioni, però, vero o no che fosse, prima di morire Ciavela ha chiesto che non le fosse imposta nessuna macchina, non ha voluto cure, proprio perché, essendo una sciamana, lei riteneva di non stare morendo, ma semplicemente se ne stava andando altrove, quindi la morte era semplicemente un passaggio ad un livello altro. E se posso aggiungere qualcosa, certo, a questo, noi la salutiamo là dove sta. Certamente. Nel 2007 aveva dichiarato, e secondo me questo racconta molto del personaggio che lei è, pardon, che lei era, aveva dichiarato durante un'intervista: voglio morire di martedì, perché di martedì non succede nulla, il martedì è un giorno noioso e io non vorrei rovinare il fine settimana a qualcuno. Invece è morta di domenica, in un giorno d'estate, però è morta felice della sua vita, orgogliosa del fatto di non dovere niente a nessuno e di essere libera. In un'altra intervista del 2009 aveva detto: la morte sa essere bellissima, è la vita che può essere puttana. Ora ho il desiderio di sdraiarmi in grembo alla morte e sono sicura che sarà molto bello, e anche noi siamo sicure che per Ciavela Vargas è stato proprio così. E rinnoviamo il saluto. Paloma Negra. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penal. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. E allora, eccoci qua, abbiamo fatto il nostro omaggio e dato il nostro saluto a Chavela Vargas. Voglio ricordare qui anche un'altra grande che ci ha abbandonato, Mercedes Sosa, di cui parlavamo a microfoni spenti. Stanno morendo tutte, non è una bella cosa. Però invece, guarda caso, il Che Sbilè è di nuovo fra di noi, vivo, rinasce come, felice, come l'araba infelice, rinasce il Che Sbilè dalle sue ceneri. E quindi ci sarà questa riapertura il 19 di ottobre prossimo. Cambia un po' la formula, cambia la formula nel senso che prima il Che Sbilè apriva ogni due settimane, quest'anno aprirà invece una volta al mese, il terzo venerdì del mese. E questo perché purtroppo andando avanti ci facciamo un po' vecchi anche noi, non quanto Chavela, è molto faticoso. Poi ci saranno delle altre donne che vorranno contribuire e associarsi a questo tipo di progetto, che è quello di tenere... Non si sente? Oh. Si sente ora? Sì. Ok, scusatemi. Stavamo dicendo, lei dice che stiamo facendo vecchi. In realtà sono le forze che mancano, siamo in poche. Però tutte coloro che vorranno aderire al progetto, vorranno aderire... non si sente. È partito il microfono di Lufino. Tutte coloro che vorranno partecipare a questa iniziativa e quindi aderire al progetto, venendo a gestire direttamente lo spazio di apertura del bar per le lesbiche il venerdì, si possono anche riaumentare portando i propri contenuti. È una cosa libera, insomma. Quindi noi abbiamo il piacere di fornire uno spazio e riempirlo dei contenuti, e per ora ce li mettiamo noi, nel senso che quello che ci viene in mente è quello che riusciamo a fare, e se ci sono altre idee o altre forze, tanto vengano, più ne vengono e meglio è, insomma. Stiamo vicine vicine. Tanto va la gatta al lardo che le si alza il colesterolo, appuntamente, e quindi, come diceva Lucilla, che è stata giustamente boicottata dal microfono, il che la dice lunga su Lucilla, e ci sono delle strane facce al di là del vetro. Dunque, quindi riprenderemo questo Che Sbilè questo 19 di ottobre. Ci sarà un concerto di Dance on Key. Quindi ci saranno a suonare questo concerto acustico Eli Natali e la chitarrista, io mi scuso con la chitarrista in anticipo, si chiama Elisa, ma in questo momento purtroppo non riesco a trovare il foglio dove l'avevo appuntato il suo cognome. Comunque saranno presenti tutte e due per questo concerto, siamo molto liete di ospitarle, di accoglierle, speriamo che tutte quante voi vogliate venire e stare in nostra compagnia. Quindi l'appuntamento è per il 19 ottobre, venerdì, a partire diciamo dalle 21 presso la Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B, negli ex locali delle Sorellastre. A questo punto io cederei nuovamente il mio microfono a Lucilla, perché il suo non funziona, e perché ci racconterà un po' di cosette interessanti. Sì, volevamo soltanto ricordare che si è chiusa domenica 23 settembre l'edizione di Sempre Fair Cake, E quindi volevamo ricordarlo, così come domenica, l'altra domenica, cioè domenica 30 settembre, si è invece concluso il fuorisalone a Milano, il fuorisalone delle lesbiche, scusate, a Milano, che stanno diventando due appuntamenti ai quali è importante essere, è importante non mancare, con iniziative varie, e dove le lesbiche finalmente, insomma, un pochino si può dire la fanno da padrone. Yes. Allora, detto questo, le compagne, le donne di Sempre Fair Cake ci hanno mandato una mail in cui dicono quali sono i film che sono, che hanno vinto, che sono stati premiati, e rapidamente i premi della giuria della sezione narrativi è andato al premio come miglior cortometraggio a Ifarim Sticker di Adira Imri Or, Israele 2011, e la menzione speciale a The Lel World di Circa Capone, per quello che riguarda invece sempre la sezione narrativi. Il miglior lungometraggio è stato assegnato a Moschita I Mari, opera prima di Aurora Guerriero, Stati Uniti del 2011. Menzione speciale a Gioie più belle di Veronica Kedar, Israele 2011. Pare che Israele quest'anno è andata alla grande, ha fatto tombolo. No, niente, niente. Erano piccoli commenti. La giuria sezione, ma io non ci sono sentiti, sezione documentari, invece, come miglior documentario è stato assegnato a Difficult Love di Zanele, ma cioè proprio io tutti quelli inglesi, vabbè. In effetti io lo di pensavo. Zanele Molly e Peter, quindi maschio, Peter Goldsmith, Sudafrica 2010, con la seguente motivazione, questa la leggo perché che ci sia un maschio, vabbè, no, non la leggo, non importa. Menzione speciale invece per la sezione documentari è andato a Audre Lorde per The Berlin Years dal 1984 al 1992 di Dagmar Schulz, Germania 2012. In questo caso mi piace leggere la motivazione per Audre Lorde, appunto, per il sapiente lavoro su documenti e materiali d'archivio di cui è intessuto il film e per la sua straordinaria capacità di ricostruire e restituire la restituzione di un ambiente, di una cultura e di una vita nera, lesbica, orgogliosa, combattente e felice. Questo era il modo di definirsi di Audre Lorde. E i premi di pubblico sono andati al lungometraggio narrativo da Clubs, com'è? Close Burs, Canada 2011, è una commedia ironica e divertente che racconta la storia di Stella e Dotti, 150 anni in due e 31 di convivenza, in viaggio verso il matrimonio per proteggere il loro diritto di concludere insieme la propria vita. Il voto di pubblico per il miglior documentario è andato invece alla Difficult Love, che già l'abbiamo detto, quindi anche quello. E il miglior cortometraggio è andato a The Mermaids di Petra Clever, Germania 2012. Petra Clever, sono sicura che si dice così. Esatto, è storia di Nikki, studentessa di matematica e quasi invisibile, alle prese con il football americano. Abbiamo detto tutto, possiamo concludere, il tempo stringe, c'è la prossima trasmissione che noi alla quale noi volentieri cediamo il passo. Noi ci rivedremo tra due martedì, perché i prossimi saranno impegnati da altre compagne e altri gruppi, e quindi a presto sentirci. Saluti ciao, da Lucilla, ciao. Rosina, Manu. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's